Oh, Mister Gibson, disse. E poi, con lieve sbigottimento da parte dell'uomo e con molta sorpresa per lei stessa, scoppiò in un pianto isterico. Era un sollievo così meraviglioso sapere di non dover più lottare per vivere. Mia cara, carissima, fece lui, tentando di consolarla con le parole e con le carezze, ma proprio in quel momento era incerto su quale nome usare. Quando i singulti si furono un poco calmati, fu lei a dire, comprendendo la sua difficoltà: Chiamatemi Hyacinth, la vostra cara Hyacinth. Claire, non lo sopporto. Mi ricorda il mio passato da istitutrice e quei giorni sono finiti ormai. Sì, ma di certo nessuno può essere stato più stimato e più amato di quanto tu sia stata. Almeno in questa famiglia. Oh sì, qui sono stati molto buoni, però bisogna sempre ricordare il proprio ruolo. Dovremmo dirlo a Lady Kemnor, osservò il dottore, pensando forse più ai vari doveri che lo attendevano in conseguenza del passo che aveva appena compiuto, che a ciò che la sua futura sposa stava dicendo. Glielo direte voi, no? Replicò lei, sollevando gli occhi imploranti su di lui. Mi piace che siano le altre persone a dirle le cose. Così io posso vedere come le prende. Certo, farò tutto quello che desideri. Andiamo a vedere se sveglia adesso. No, penso di no. Meglio che io la prepari. Verrete domani, vero? E allora glielo direte. Sì, sarà la cosa migliore. Devo dirlo prima a Molly. Ha il diritto di sapere. Spero che tu e lei vi vorrete sinceramente bene. Oh sì, ne sono certa. Allora verrete domani e lo direte a Lady Kemnor. Io la preparerò. Non vedo quali preparativi siano necessari, ma tu ne sai più di me, mia cara. Quando vogliamo organizzare l'incontro con Molly? Proprio in quel momento entrò con dei domestici e la coppia si divise. La sua signoria è sveglia e desidera vedere Mr. Gibson. Entrambi seguirono l'uomo al piano di sopra. Mrs. Kirkpatrick fece di tutto per far sembrare che nulla fosse accaduto, perché voleva adeguatamente preparare Lady Kemnor, ovvero darle la sua versione dell'estrema urgenza di Mr. Gibson e della propria ritrosia. Ma Lady Kemnor aveva occhi molto perspicaci, nella malattia come in salute. Era andata a dormire con il ricordo del brano della lettera del marito ben chiaro in mente, e forse questo diede una direzione alle sue idee una volta sveglia. Sono lieta che non ve ne siate andato, Mr. Gibson. Volevo dirvi, cosa avete tutti e due? Cosa avete detto a Claire? Sono sicura che è successo qualcosa. Secondo Mr. Gibson, non c'era altro da fare che svuotare il sacco e rivelare tutto a sua signoria. Si voltò, prese la mano di Mrs. Kirkpatrick e annunciò senza indugi. Ho chiesto a Mrs. Kirkpatrick di essere mia moglie e una madre per mia figlia. E lei ha consentito. Non so quasi come ringraziarla abbastanza con le mie parole. Non vedo obiezioni. Direi che sarete molto felici. Ne sono lieta, ecco. Stringetemi la mano, entrambi. Poi ridacchiando aggiunse: Mi pare che da parte mia non sia stato richiesto alcun sforzo. Mr. Gibson sembrò perplesso nel sentire queste parole. Mrs. Kirkpatrick arrossì. Non ve l'ha detto? Beh, devo farlo io. È un aneddoto troppo divertente per tacere, specie dal momento che è finito tutto bene. Quando stamattina è arrivata la lettera di Lord Kemnor, proprio stamattina, io l'ho data a Claire perché me la leggesse e ho notato che all'improvviso lei si è interrotta dove non c'era un punto. Io ho pensato si trattasse di qualcosa che riguardava Agnes. Perciò ho preso la lettera e ho letto. Fermo là. Vi leggo la frase. Dov'è la lettera, Claire? Ah, oh, non disturbatevi, eccola là. Come va da Claire e Gibson? Avete disprezzato il mio consiglio a dare una mano in quella faccenda, ma penso veramente che un po' di tempo speso a combinare matrimoni sarebbe un divertimento molto piacevole per voi, che ora siete chiuse in casa e non posso immaginare un'unione più adatta. Vedete? Avete la piena approvazione di Milord. Ma devo scrivergli e dirgli che avete gestito i vostri affari senza alcuna interferenza da parte mia. Ora ci faremo una chiacchierata di argomento medico, Mr. Gibson. Dopodiché, voi e Claire potrete terminare il vostro tête-à-tête. Nessuno dei due aveva più voglia di dialogare con l'altro, come era stato prima della lettura del brano della lettera di Lord Camelor. Mr. Gibson tentò di non pensarci, perché era conscio che, se si fosse soffermato, si sarebbe ritrovato a immaginare ogni sorta di cose della conversazione che era approdata alla sua proposta di matrimonio. Ma Lady Camelor era imperiosa, ora come sempre. Andiamo, niente sciocchezze. Ho sempre fatto in modo che le mie figlie avessero il loro tête-à-tête con gli uomini che sarebbero diventati i loro mariti, che lo volessero o no. Ci sono tantissime cose di cui parlare prima di ogni matrimonio, e voi due siete di certo abbastanza vecchi da essere immuni dall'affettazione. Andate! Dunque, non poterono far altro che ritornare in biblioteca. Mrs. Kirkpatrick aveva messo un po' il broncio e Mr. Gibson si sentiva decisamente di umore più freddo e sarcastico dell'ultima volta che era entrato in quella stanza. La donna iniziò quasi piangendo. Non so cosa direbbe il povero Kirkpatrick se sapesse cosa ho fatto. L'idea di un secondo matrimonio gli era così sgradita, poveretto. Speriamo allora che non lo sappia, o che se lo sa. Non sia più saggio, voglio dire che non si accorga di come le seconde nozze possano essere in alcuni casi la soluzione più desiderabile e vantaggiosa. Tutto sommato, questo secondo tête-à-tête, svoltosi a comando, non fu soddisfacente come il primo, e Mr. Gibson sapeva bene di dover presto riprendere il suo giro per visitare i pazienti. Presto dovremo adattarci al compromesso, non ho dubbi, si disse galoppando via. Non ci si può certo aspettare che i nostri pensieri prendano subito la stessa direzione, né lo vorrei, aggiunse. Sarebbe proprio noioso e stagnante ricevere da una moglie nient'altro che l'eco delle proprie opinioni. Caspita, devo dirla, Molly, la mia cara piccola donna, mi domando come la prenderà. In buona parte è stato fatto per il suo bene. Poi si distrasse nella ricapitolazione delle qualità di Mrs. Kirkpatrick e nei vantaggi di cui sua figlia avrebbe goduto grazie al passo che egli aveva appena compiuto. Era troppo tardi per passare dal Hamley quel pomeriggio. Le torri e il giro di visite lì intorno si trovavano nella direzione opposta rispetto a Hamley, perciò Mr. Gibson si presentò alla residenza la mattina successiva, programmando la visita a un'ora in cui avrebbe potuto avere a disposizione una mezz'ora di conversazione privata con Molly, prima che la signora scendesse in salotto. Pensava che la figlia avrebbe avuto bisogno di consolazione dopo aver appreso la notizia che stava per comunicarle e sapeva che nessuno era più adatto di Mrs. Hamley per offrirla. Era una calda e luminosa mattina d'estate. Gli uomini in maniche di camicia erano nei campi per il primo raccolto dell'avena. Passando a cavallo, Mr. Gibson poteva vederli oltre le alte siepi e persino udire il suono cadenzato delle falciate che recidevano le messi. I loro lavoranti parevano troppo accaldati per parlare. Il cane, a guardia delle loro giacche e delle loro gavette, giaceva ansando rumorosamente dall'altro lato dell'olmo, sotto il quale Mr. Gibson si fermò un istante a osservare la scena e a ritardare un poco il colloquio che desiderava già concluso. Un momento dopo se la prese con se stesso per quella debolezza e diede di sprone al suo cavallo. Si avvicinò alla casa trottando veloce. Era insolito che arrivasse così presto e nessuno lo attendeva. Tutti gli stallieri erano nei campi, ma ciò aveva poca importanza per Mr. Gibson. Fece camminare il cavallo intorno per 5 minuti prima di portarlo nella stalla, sciolse le cinghie della sella e lo esaminò con un'accuratezza forse non necessaria. Entrò in casa da una porta privata e si fece strada verso il salotto, quasi aspettandosi tuttavia che Molly si trovasse in giardino. Lei c'era stata, ma faceva troppo caldo e restare fuori casa l'abbagliava, così era rientrata attraverso la porta finestre della sala. Affaticata dalla calura, si era addormentata su una poltroncina con il cappellino, un libro aperto sulle ginocchia e un braccio che penzolava inerte. Aveva un aspetto molto dolce, giovane, infantile, e un afflato d'amore sultò nel cuore di suo padre mentre la guardava. Molly, la chiamò gentilmente, prendendo nella propria l'inerte manina abbronzata. Molly! Ella aprì gli occhi e per un attimo non lo riconobbe. Poi una luce brillò in quello sguardo. Lei balzò in piedi, gli gettò le braccia al collo, esclamando: Oh, papà, mio caro, caro papà, come mai sei arrivato mentre dormivo? Mi sono perso il piacere di aspettarti. Mr. Gibson divenne un po' più pallido di prima. Tenendole ancora la mano, l'accompagnò a sedersi accanto a lui su un divano, senza dire una parola. Non c'era bisogno, era lei a chiacchierare. Mi sono alzata così presto, è così bello stare fuori con l'aria fresca del mattino. Penso sia stato questo a darmi sonnolenza. Ma non è una magnifica giornata di caldo? Mi chiedo se i cieli italiani di cui si parla possano essere più azzurri di questo, quello sprazzo che si vede tra le querce e là. Ritrasse la mano e insieme all'altra voltò il viso del padre così che lui potesse vedere proprio l'angolino che le indicava. Era piuttosto colpita dal suo inusuale silenzio. Hai avuto notizie da Miss Eyre, papà? Come stanno tutti? E questa febbre che c'è in giro? Sai, papà, non credo che tu abbia un bell'aspetto. Hai bisogno di me a casa perché mi occupi di te. Quando posso tornare? Non ho un bell'aspetto. Occhietta, deve essere una tua impressione. Mi sento insolitamente bene e devo apparire bene perché ho una notizia per te, piccola donna. Sentì di star compiendo il proprio dovere in modo alquanto bizzarro, ma era determinato ad arrivare in fondo. Non te lo immagini? E come potrei? Rispose la ragazza, ma il suo tono era mutato e lei era evidentemente a disagio, come se istintivamente presagisse qualcosa. Beh, vedi, amor mio, riprese lui, prendendole di nuovo la mano. Tu ti trovi in una condizione molto strana. Una ragazza che cresce in una famiglia come la mia, giovanotti, e questa è stata una mia imprudente sciocchezza. E io sono obbligato a star lontano così spesso. Ma c'è Miss Eyre, obiettò lei, quasi nauseata per il rafforzarsi dell'indistinto presagio di ciò che stava per avvenire. Cara Miss Eyre, io non ho bisogno d'altri che di te e lei. Eppure ci sono momenti come ora, in cui Miss Eyre non può stare con te. La sua casa non è con noi, lei ha altri doveri. Per un po' sono stato molto perplesso, ma alla fine ho compiuto un passo che spero ci renderà entrambi felici. Stai per risposarti, concluse lei, venendogli in aiuto con una voce asciutta e quieta e ritraendo dolcemente la mano dalla sua. Sì, con Mrs. Kirkpatrick. Ti ricordi di lei? La chiamano Claire alle torri. Rimembri quanto è stata gentile con te quel giorno in cui fosti lasciata lì? Molly non rispose, non sapeva scegliere le parole. Aveva paura di dire qualunque cosa per timore che la rabbia, il dispiacere, l'indignazione o qualsiasi cosa le stesse ribollendo nel petto si sfogassero in pianti e strepiti, o peggio, in parole rose che non sarebbero mai più state dimenticate. Era come se il pezzettino di solido terreno dove si trovava si fosse staccato dal lido e lei stesse andando alla deriva sola verso il mare sconfinato. Mr. Gibson notò che quel silenzio era innaturale, credette di indovinarne la causa. Ma sapeva che lei doveva avere un po' di tempo per riconciliarsi con l'idea e pensava ancora che tutto fosse fatto per la sua futura felicità. Inoltre egli era sollevato di sapere che il segreto era stato confessato, che la notizia era stata rivelata ed era una cosa di cui aveva avuto timore nelle ultime 24 ore. Continuò a ricapitolare i vantaggi del matrimonio, ormai li conosceva a memoria. La sua età va benissimo per me. Non so quanti anni abbia esattamente, ma deve averne quasi 40. Non avrei voluto sposare una donna più giovane. È molto rispettata da Lord e Lady Camnor e dalla loro famiglia, cosa che di per sé è una dote. I suoi modi sono molto gradevoli e squisiti, ovviamente per via delle compagnie che si è trovata a frequentare, e tu e io, Chetta, siamo abituati a essere un po' bruschi, diciamo. Ora dovremmo raffinare le nostre maniere. Da parte della figlia, nessun commento su questa battuta. Egli proseguì. È abituata a governare una casa, anche dal punto di vista economico, perché negli ultimi anni ha gestito una scuola ad Edgecombe e naturalmente ha dovuto occuparsi di tutto ciò che serve a una grande famiglia. E ultima cosa, ma non meno importante, ha una figlia, che ha circa la tua età, Molly, la quale sicuramente verrà a vivere con noi e sarà una gradevole compagna, una sorella per te. Lei taceva, ma alla fine disse: Dunque, sono stata mandata via da casa in modo che tutto questo potesse essere pianificato tranquillamente in mia assenza. Diede voce all'amarezza del suo cuore, ma rimase turbata e scossa dalla propria finta impassibilità, dall'effetto che le sue parole produssero. Il padre si alzò di scatto e lasciò in fretta la stanza, dicendo qualcosa tra sé e sé. Cosa? Lei non poté udirlo. Ma gli corse dietro, lo seguì lungo gli oscuri corridoi di pietra fino al bagliore del cortile, fin dentro la stalla. Papà, papà, non sono io. Non so che dire di questo odioso, detestabile. Egli condusse fuori la sua bestia. Lei non sapeva se avesse udito le sue parole. Montato a cavallo, le rivolse una faccia grigia e lugubre. Penso sia meglio per entrambi che ora me ne vada. Potremmo dire cose difficili da dimenticare. Siamo entrambi molto agitati. Entro domani saremo più calmi, tu ci avrai pensato e avrai capito che il principale, l'unico vero motivo, intendo dire, era il tuo bene. Puoi dirlo a Mrs. Hamley, volevo comunicarglielo io stesso. Torno domani, arrivederci, Molly. Per molti minuti dopo che fu andato via, molto dopo che il suono degli zoccoli del cavallo sulle pietre arrotondate del viale, oltre i prati della casa, fu svanito, Molly rimase in piedi, schermandosi gli occhi e guardando allo spazio vuoto in cui la figura di lui era apparsa per l'ultimo istante. Il suo stesso respiro sembrava sospeso. Solo due o tre volte, dopo lunghi intervalli, ella trasse un doloroso sospiro che si smorzò in un singhiozzo. Infine si voltò indietro, ma non poté entrare in casa. Non poteva dirlo a Mrs. Hamley. Non riusciva a dimenticare come suo padre l'aveva guardata, come le aveva parlato, come l'aveva lasciata. Uscì da una porta laterale, era l'ingresso da cui i giardinieri passavano quando portavano il concime in giardino. Il vialetto al quale conduceva era quanto più possibile celato alla vista grazie agli arbusti, ai sempreverdi e alla volta degli alberi. Nessuno avrebbe saputo cosa ne sarebbe stato di lei, e con l'ingratitudine dettata dal dolore, ella aggiunse che a nessuno sarebbe importato. Mrs. Hamley aveva suo marito, i suoi figli, i suoi impegni domestici. Era molto buona e gentile, ma nel cuore di Molly c'era una sofferenza amara con cui gli estranei non potevano interferire. Raggiunse rapidamente il punto che si era prefissata, un sedile quasi circondato dalle foglie cadenti di un salice piangente, un sedile che si trovava sulla lunga e ampia passeggiata terrazzata dall'altra parte del bosco, affacciata sul bel declivio dei prati. Quel percorso era probabilmente stato predisposto proprio per godere del paesaggio pacifico e pieno di sole, con gli alberi, le cuspidi della chiesa, due o tre tetti dalle tegole rosse dei vecchi cottage e un'altura violetta che si levava in lontananza. E in un'epoca precedente, quando nella dimora degli Hamley risiedeva forse una grande famiglia, nobildonne in crinoline e gentiluomini imparrucati con la spada appesa al fianco, avrebbero forse occupato l'estensione della terrazza, gironzolando e sorridendo qua e là. Ma ora nessuno interessava passeggiare, il camminamento era deserto. Lo squire o i suoi figli potevano attraversarlo per raggiungere il cancelletto che portava ai prati più oltre, ma nessuno si soffermava lì. Molly pensò quasi che nessuno oltre lei sapesse del sedile nascosto sotto il salice. Infatti, non c'erano giardinieri impiegati sui terreni più di quanto fosse necessario per tenere in ordine i giardini della cucina e la loro parte ornamentale, che era frequentata dalla famiglia o che si vedeva dalla casa. Raggiunto il sedile, ella sfogò il proprio dolore represso. Non si preoccupò di analizzare la fonte di quelle lacrime, di quei singulti, il fatto che suo padre stesse per risposarsi, che fosse arrabbiato con lei. Lei si era comportata molto male. Lui se n'era andato molto dispiaciuto, aveva perso il suo amore. Lui stava per risposarsi, lontano da lei, lontano dalla sua bambina, dalla sua figliola, dimentico della sua cara, cara mamma. Queste cose pensava tumultuosamente, singhiozzando fino a esaurirsi, tanto che dovette calmarsi per recuperare le forze e poi rimettersi di nuovo a piangere. Si era lasciata scivolare a terra, trono naturale per una violenta sofferenza, appoggiandosi all'antico sedile ammantato di muschio. Talvolta sprofondava il viso nelle mani, talvolta le stringeva forte, come se la presa serrata e sofferente delle dita potesse attutire il dolore della sua mente. Non vide Roger Hamley che tornava dai prati, né udì il suono metallico del cancelletto bianco. Era stato in giro a dragare stagni e fossati e portava su una spalla la sua reticella bagnata in cui erano imprigionati i sudici tesori. Stava rincasando per il pranzo, visto che aveva sempre un robusto appetito di metà giornata, benché pretendesse teoricamente di non aver bisogno di quel pasto. Ma sapeva che a quell'ora la madre gradiva la sua compagnia, che era molto legata all'abitudine del pranzo e che prima di quel momento la si vedeva raramente di sotto. Perciò il giovane aveva ripudiato la sua teoria per il bene della madre e aveva avuto la propria ricompensa nella cordiale soddisfazione con cui mangiava tenendole compagnia. Attraversando il viale terrazzato in direzione di casa, non vide Molly. Aveva percorso circa 20 yard sul sentiero del bosco perpendicolare alla terrazza, quando guardando tra l'erba e le piante selvatiche sotto gli alberi, ne scorse una di rarissima, una che aveva tanto sperato di poter vedere in fiore, e alla fine la scovò con quei suoi occhi acuti e brillanti. La sua rete si abbassò fra l'erba, abilmente raccolta per trattenere il suo contenuto, e lui si diresse con passi leggeri e attenti in cerca del suo tesoro. Era un tale amante della natura che senza pensarci, bensì per abitudine, evitava sempre di calpestare le piante se non era necessario. Chissà quali fioriture o quali insetti a lungo cercati potevano crescere in ciò che ora appariva insignificante. I suoi passi lo condussero verso il sedile sotto il salice, che da quel punto era molto meno celato alla vista che non dalla terrazza. Si arrestò. Vide per terra un abito dai colori delicati. Qualcuno che giaceva mezzo appoggiato al sedile, così immobile in quel momento, che egli si chiese se la persona, chiunque fosse, si fosse sentita male o fosse svenuta. Si fermò a osservare. Dopo un paio di minuti, i singhiozzi, le parole, ripresero. Era Miss Gibson che piangeva e con una voce spezzata esclamava: «Papà, papà, se solo potessi tornare!» Per un momento il giovane pensò che sarebbe stato più cortese lasciarle credere di essere inosservata. Aveva fatto persino un paio di passi a ritroso in punta di piedi, ma a quel punto sentì di nuovo quei singulti sofferenti. Era troppo lontano perché sua madre potesse raggiungerli, altrimenti, data la natura di quel dolore, lei sarebbe stata la giusta consolatrice per la ragazza, sua ospite. Tuttavia, che fosse giusto, sbagliato, delicato e invadente, quando udì quella voce triste che ricominciava a parlare, egli si voltò e si diresse allo schermo verdeggiante offerto dal salice. La ragazza sobbalzò quando lui le venne vicino, tentò di reprimere i singhiozzi e istintivamente lisciò con le mani i capelli umidi legati all'indietro. Roger la guardò con simpatia seria e gentile, ma non sapeva esattamente cosa dire. «È ora di pranzo», chiese lei, tentando di credere che egli non avesse visto le tracce delle lacrime e il turbamento sul suo viso, che non l'avesse vista per terra a sciogliersi il cuore a furia di singulti. «Non so, stavo rientrando apposta, ma dovete permettermi che ve lo dica. Non ho potuto proseguire, vedendo che stavate così male. È successo qualcosa, qualcosa per cui vi possa aiutare, intendo. In effetti, naturalmente, non ho alcun diritto di chiedervelo se si tratta di un dolore personale e in questo caso non posso essere di alcuna utilità». La ragazza si era stancata talmente per il gran piangere che si sentiva incapace di alzarsi in piedi e di camminare. Prese posto sul sedile e sospirò, facendosi così pallida che Roger pensò stesse per svenire. «Aspettate un momento», egli disse. Cosa del tutto superflua perché lei non poteva neanche muoversi e sfrecciò via verso una sorgente che sapeva trovarsi nel bosco. Poco dopo tornò, camminando con attenzione e portando un po' di acqua in una larga foglia verde, trasformata in un bicchiere improvvisato. Per poca che fosse, quell'acqua le fece bene. «Grazie», gli disse. «Tra poco sarò in grado di camminare, non trattenetevi». «Permettetemelo», replicò lui. «Mia madre non sarebbe contenta se vi lasciassi rientrare da sola mentre siete così debole». Così rimasero in silenzio per un po'. Lui ogni tanto si alzava per esaminare una o due foglie anomale del salice, in parte perché era nella sua natura, in parte per darle il tempo di riprendersi. Papà sta per risposarsi, confidò lei alla fine. Non l'avrebbe saputo dire perché gliel'avesse rivelato. Un istante prima di parlare non ne aveva alcuna intenzione. Egli lasciò cadere la foglia che teneva in mano. Si voltò e la guardò. I poveri e tristi occhi di lei si stavano riempendo di lacrime quando incrociarono i suoi, con una muta richiesta di amicizia. Il suo sguardo diceva più delle sue parole. Prima che egli rispondesse ci fu una pausa, dopodiché, più per il bisogno di dire qualcosa che perché egli nutrisse qualche dubbio in merito alla risposta, le domandò: «Mi dispiace?» Lei non distolse gli occhi dai suoi, mentre le sue labbra tremanti formulavano la parola «sì», senza emettere alcun suono. Lui tacque nuovamente, guardò a terra e scalciò dolcemente un ciottolo abbandonato. I suoi pensieri non emergevano rapidamente in superficie in forma di parole, né egli era un tipo adatto a offrire conforto, finché non vedesse chiaramente la via da cui potesse provenire la reale fonte di consolazione. Infine disse, quasi come se stesse ragionando tra sé e sé sull'argomento: «Sembra che ci possano essere casi in cui, mettendo del tutto da parte la questione amorosa, è quasi un dovere trovare qualcuno che sostituisca una madre». Credo. Continuò con un tono di voce diverso e guardando di nuovo Molly. Che questo passo possa dare molta felicità a vostro padre, che possa sollevarlo da tante preoccupazioni, che possa offrirgli una piacevole compagnia. Aveva me. Voi non sapete cosa eravamo l'uno per l'altra, perlomeno cosa lui significava per me, aggiunse lei umilmente. Eppure, deve aver pensato che fosse la cosa migliore, altrimenti non l'avrebbe fatto. Deve aver pensato fosse il meglio per amor vostro, più che per se stesso. È ciò di cui ha tentato di convincermi. Roger ricominciò a scalciare il ciottolo. Non aveva ancora trovato il bandolo della matassa. All'improvviso sollevò lo sguardo. Voglio raccontarvi di una ragazza che conosco. Sua madre morì quando lei aveva circa 16 anni. Era la maggiore di una famiglia numerosa. Da quel momento, nel pieno fulgore della sua giovinezza, ella si dedicò al padre, prima per confortarlo, poi per essergli compagna, amica, segretaria, quello che volete. Costui era un uomo molto impegnato e spesso tornava a casa solo per dare indicazioni per il giorno successivo. Harriet era sempre lì, pronta ad aiutare, a parlare o a tacere. Andò avanti così per 8 anni. Il padre si risposò con una donna non molto più grande della stessa Harriet. Beh, sono la famiglia più felice che conosca. Non l'avreste creduto possibile, vero? Lei ascoltava, ma non aveva cuore di dire alcunché. Però le interessava questa storia di Harriet, una ragazza che aveva significato tanto per suo padre, più di quanto Molly, così giovane, avesse potuto fare per Mr. Gibson. Com'è accaduto? Sospirò alla fine. Harriet pensò alla felicità di suo padre prima che alla propria, rispose Roger, con una sintesi un po' severa. Molly aveva bisogno di una scossa, ricominciò a piagnucolare. Se si trattasse della felicità di papà, lui deve credere che sia così. Qualunque cosa pensiate voi, dategli un'opportunità. Non deve sentirsi molto confortato a vedervi così agitato o sofferente. Avete significato così tanto per lui, lo dite voi. E anche la signora. Se la matrigna di Harriet fosse stata una donna egoista e sempre attaccata alla gratificazione dei propri desideri, ma non era così. Era ansiosa che Harriet fosse felice, come Harriet lo era per suo padre. E la futura moglie di vostro padre potrebbe appartenere alla stessa categoria, sebbene questo genere di persone sia poco frequente. Io però penso che non lo sia, mormorò Molly, mentre un'ondata dei ricordi riportava alla sua mente i particolari della sua giornata alle torri tanto tempo prima. Roger non voleva conoscere le ragioni di un discorso così dubbioso, Sentiva di non avere il diritto di apprendere di più a proposito della vita familiare di Mr. Gibson, passata, presente o futura, di quanto fosse assolutamente necessario per confortare e aiutare la ragazza in lacrime, sulla quale si era imbattuto in modo così imprevisto. Inoltre voleva andare a casa e pranzare con la madre, ma non poteva lasciare Molly da sola. È giusto nutrire buone aspettative in merito a chiunque e non attendersi il peggio. Questo sembra lapalissiano, ma mi ha dato speranza prima d'ora e un giorno lo troverete utile anche voi. Bisogna sempre cercare di pensare più agli altri che a se stessi ed è meglio non avere pregiudizi negativi sulle persone. I sermoni non sono lunghi, vero? Vi hanno fatto venire appetito? I sermoni a me fanno sempre venire fame, lo so. Sembrava stesse aspettando che lei si alzasse e si incamminasse con lui, in effetti era così. Ma il giovane voleva che lei capisse che non l'avrebbe lasciata sola. Perciò Molly si mise in piedi languidamente, troppo debole per dire quanto avrebbe preferito la solitudine se solo lui se ne fosse andato senza di lei. Era molto fiacca e inciampò sulla radice sparsa di un albero che si allungava attraverso il sentiero. Roger, attento benché silenzioso, vide che barcollava e tese la mano per impedirle di cadere. Sventato l'incidente, continuò a tenerle la mano. Questa lieve debolezza fisica gli scolpì nel cuore l'impressione di quanto Molly fosse giovane e indifesa, ed egli provò tenerezza per lei. Desiderò poterle offrire un dolce piccolo conforto prima che si separassero, prima che la loro camminata solitaria sfociasse nella familiarità generale della vita domestica. Ma non sapeva che dire. Mi avrete giudicato severo, finì con l'affermare, mentre si avvicinavano alle finestre del salotto e all'ingresso del giardino. Non riesco mai a gestire bene l'espressione dei miei sentimenti. In qualche modo casco sempre nel far filosofia, ma davvero mi dispiace per voi. Sì, è così. Aiutarvi è oltre il mio potere, come lo è il mutare i fatti, ma vi comprendo e mi dispiace in un modo di cui è meglio non parlare perché non può recare alcun giovamento. Ricordate quanto mi dispiace per voi. Vi penserò spesso, anche se oserei dire che è meglio non parlarne più. Lei replicò quasi impercettibilmente: So che vi dispiace. E così corse via in casa di sopra, nella solitudine della sua stanza. Roger andò direttamente dalla madre, che sedeva davanti al pranzo intatto, infastidita per quanto ne era capace, dal misterioso ritardo della sua ospite. Aveva appreso infatti che Mr. Gibson era stato lì e se n'era andato, e non era riuscita a sapere se avesse lasciato un messaggio per lei, e la sua ansia per la propria salute, ritenuta da alcuni ipocondriaca, le faceva sempre agognare le informazioni che potessero uscire dalle labbra del dottore. Dove sei stato, Roger? Dov'è Molly? Sì, Gibson, voglio dire, si corresse, poiché era attenta a mantenere alte le barriere della forma tra il giovanotto e la ragazza che si trovavano insieme nella stessa casa. Sono stato in giro a dragare. E tra parentesi ho lasciato la retina sul viale terrazzato. Ho trovato Miss Gibson seduta lì, a piangere, come se le si stesse spezzando il cuore. Suo padre sta per risposarsi. Risposarsi? Non mi dire! Eh già, e lei l'ha presa proprio male, povera ragazza. Mamma. Credo che se potessi chiedere a qualcuno di portarle un bicchiere di vino o una tazza di tè, qualcosa del genere, stava quasi per svenire. Ci vado io stessa, povera bambina, disse Mrs. Hamley alzandosi. No, tu non devi, obiettò il figlio posandole una mano sul braccio. Ti abbiamo già fatto aspettare troppo, sei troppo pallida. Puoi pensarci, Hammond, continuò suonando il campanello. La donna risedette, quasi attonita per la sorpresa. E con chi si sposa? Non so, non l'ho chiesto e lei non me l'ha detto. Tipico degli uomini. Beh, gran parte della questione sta proprio nella persona che lui intende sposare. Forse avrei potuto chiederlo, ma per un motivo o per un altro non sono bravo in queste cose. Mi dispiaceva così tanto per lei, eppure non sapevo cosa dire. E cosa hai detto? Le ho dato il miglior consiglio che potevo. Consiglio? Avresti dovuto consolarla, povera Molly. Penso che un consiglio sia utile come la migliore consolazione. Dipende da cosa intendi per consiglio. Shh, eccola qui. Con loro sorpresa, Molly entrò, sforzandosi di apparire come al solito. Si era bagnata gli occhi e sistemata i capelli. Stava lottando per non piangere, per far tornare normale la voce. Non voleva turbare Mrs. Hamley mostrandole il dolore e la sofferenza. Non sapeva di star seguendo le indicazioni di Roger, pensare più agli altri che a se stessa, ma era proprio così. Mrs. Hamley non era sicura che fosse saggio da parte sua esordire con la notizia che aveva appena ricevuto dal figlio, ma era troppo curiosa per parlare d'altro. Così ho sentito che tuo padre stava per risposarsi, mia cara. Posso chiedere con chi? Mrs. Kirkpatrick. Penso che molto tempo fa abbia lavorato come istitutrice per la contessa di Kemnor. Passa un sacco di tempo con loro. La chiamano Claire e immagino che le vogliano un gran bene. Molly tentava di parlare della sua futura matrigna nel modo migliore che poteva. Credo di averne sentito parlare. Dunque, non è molto giovane. Appropriato. È una vedova anche. Ma famiglia? Una figlia, mi pare, ma so così poco di lei. Molly era di nuovo prossima alle lacrime. Non importa, mia cara, tutto a tempo debito. Roger, non hai mangiato quasi nulla. Dove stai andando? A prendere la mia retina? È piena di cose che non voglio perdere. E poi non mangio mai molto come principio generale. Disse solo mezza e non tutta la verità. Pensava che sarebbe stato meglio lasciarle sole. Sua madre era così brava e dolce nella compassione che in un tête-à-tête avrebbe saputo rimuovere la spina nel cuore della ragazza. Non appena se ne fu andato, Molly sollevò i poveri occhi gonfi e guardando Mrs. Hamley disse: È stato così buono con me. Voglio tentare di ricordare tutto ciò che ha detto. Sono lieta di sentirlo, amor mio. Da quando mi hai raccontato, temevo che ti avesse impartito una piccola lezione. Ha un cuore buono, ma i suoi modi non sono dolci come quelli di Osborne. Roger talvolta è un po' ruvido. Allora mi piace la ruvidezza. Mi ha fatto bene. Mi ha fatto capire quanto male. Oh, Mrs. Hamley, mi sono comportata così male con papà questa mattina. Si alzò e si gettò fra le braccia di Mrs. Hamley, singhiozzando sul suo petto. Il suo dolore ora non dipendeva dal fatto che il padre stesse per risposarsi, ma dalla propria cattiva condotta. Se Roger non era tenero con le parole, lo era nelle azioni. Per quanto la sofferenza di Molly gli fosse sembrata ingiustificata e forse esagerata, per lei era autentica ed egli si preoccupò di alleggerirla a modo suo, un modo piuttosto particolare. Quella sera egli predispose il microscopio e sistemò su un tavolino i tesori che aveva raccolto durante il suo vagabondare di quel mattino, poi chiese alla madre di venire a vedere. Naturalmente Molly la seguì ed era proprio ciò che lui voleva. Tentò di interessarla alle sue ricerche, stuzzicò il suo primo briciolo di curiosità e lo coltivò fino a farlo diventare un vero e proprio desiderio di ottenere altre informazioni. Allora tirò fuori dei libri sull'argomento e tradusse il linguaggio tecnico e vagamente pomposo in un discorso semplice e quotidiano. Molly era scesa a cena chiedendosi quanto ci avrebbero messo a passare le ore che la separavano dal letto, ore durante le quali non doveva parlare della sola cosa che avrebbe occupato la sua mente, escludendone gli altri. Temeva infatti di aver stancato Mrs. Hamley durante il loro colloquio pomeridiano. Ma le preghiere e l'ora di dormire sopraggiunsero prima che se lo aspettasse. Era stata distratta e alleviata da un nuovo tipo di pensieri e ne era molto grata a Roger. Ora doveva arrivare l'indomani e lei avrebbe dovuto pentirsi davanti a suo padre. Ma Mr. Gibson non aveva bisogno di parole o di discorsi. Non era mai ben disposto verso i sentimentalismi e forse per di più sentiva che era meglio parlare il meno possibile di un argomento sul quale evidentemente lui e sua figlia non erano pienamente e istintivamente in armonia. Lesse il pentimento negli occhi di Molly, vide quanto aveva sofferto e di conseguenza accusò un forte dolore nel cuore. Le impedì di esprimere il proprio rincrescimento per la condotta del giorno prima dicendo: Va bene, va bene, va bene così. So tutto quello che vuoi dire. Conosco la mia piccola Molly, la mia sciocca Occhetta, meglio di quanto si conosca lei stessa. Ti ho portato un invito. Lady Kemnor desidera che tu vada a trascorrere il giovedì prossimo alle Torri. Tu vuoi che ci vada? Chiese lei con il cuore che sprofondava. Voglio che tu e Hyacinth vi conosciate meglio, che impariate a volervi bene. Hyacinth? Ripete Molly stupefatta. Sì, Hyacinth. È il nome più sciocco che abbia mai sentito, ma è il suo e devo chiamarla così. Non sopporto il nome Claire, che è tutto usato da Milady e da tutta la famiglia Le Torri, e Mrs. Kirkpatrick è formale e pure insensato, perché lo cambierà molto presto. Quando, papà? Chiese Molly, sentendosi come di vivere in un mondo strano e sconosciuto. Non fino a San Michele. E poi, continuando coi propri pensieri, aggiunse: E la cosa peggiore è che ha perpetuato questo nome così affettato nella figlia, che si chiama come lei, Cynthia. Si pensa alla luna e all'uomo sulla luna con il suo fagotto di fascine. Sono grato che tu ti chiami semplicemente Molly, bambina mia. Quanti anni ha Cynthia? Voglio dire. Sì, abituati al nome. Penso che Cynthia Kirkpatrick abbia più o meno la tua età. È a scuola in Francia a imparare a essere aggraziata e a darsi delle arie. Dovrà tornare per il matrimonio, così potrai conoscerla. Anche se credo che poi tornerà lì per altri 6 mesi almeno.